sempre noi, non vogliamo mai i soli discendenti di una razza di eroi. Non chiediamo scusa, non facciamo scusa, anzi sai che c'è, c'è che io me ne frego. Ho sempre ridato in faccia al mondo che io me ne frego. A volte mi sembra di stare dentro un film di Romero, perché io sono fiero del mio sangue e della mia razza, di cui io vado fiero. Sì, io ne vado fiero. Tu con la tua lì, tua verità, con la supponenza di valere più di me. Sei solo un ben pensante, sei solo un arrogante, ma tu sai che c'è, c'è che io me ne frego. Ho sempre gridato in faccia al mondo che io me ne frego. E lo giuro davvero, a volte mi sembra di stare dentro un film di Romero, perché io sono fiero del mio sangue e della mia razza, di cui io vado fiero. Sì, io ne vado fiero. Sai, forse ragione come fai a vivere la vita come fosse solo tua. Sei solito arrivista con sete di conquista, perché io me ne frego. E ho sempre gridato in faccia al mondo che io me ne frego. E lo giuro davvero, che se a volte mi sembra di stare dentro un film di Romero, perché io sono fiero del mio sangue e della mia razza, di cui io vado fiero. Sì, io ne vado fiero. Guardi dentro te, nulla troverai, allora proprio niente più potrai. Ma noi a vincer destinati, perché noi siamo nati per combattere e morire. Che io me ne frego, ho sempre ridato in faccia al mondo che io